Ciao bambini, io sono la nuova maestra. Per quest'anno vi insegno io. Adesso facciamo il giro dei nomi. Te come ti chiami? Ciao maestra. Ciao. A settembre se non mi bocciano vado in seconda. Buongiorno. Ciao. Mi sono impegnata per la pagella e adesso mi impegno anche per andare avanti. Perciò la maestra viene sempre prima di noi. Buongiorno maestra. Buongiorno bambini, sono la vostra nuova maestra per questo anno scolastico e mi chiamo Sara. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno maestra. Maestra, per favore, posso andare in bagno? Permette. Non ti ho mai insegnata così. Solo la maestra viene sempre prima di noi. No, al contrario, che lei è già in classe, noi arriviamo e la salutiamo. Quando entriamo in classe la chiamiamo diciamo buongiorno. Ma non la chiamo mai maestra. È maschile. Buongiorno ragazzi. Io sono il nuovo maestro e sto con voi tutto l'anno. Buongiorno nuovo maestro. È maschile? Alcuni che vogliono dire tutto subito alzano la mano e sparano la parola, mentre altri alzano la mano, si alzano e quando vogliono dire proprio una cosa si alzano e iniziano a salutare. Pietro, ti devo dire una cosa. Posso essere interrogata per prima? Buongiorno bambini, io sono la vostra nuova maestra. Sì, alzare la mano. Pietro, ti devo dire una cosa. Maestro, vedi che Alfonso sta copiando. No, dai. Sta un po' zitta e pensa anche a lavorare a scuola, perché così puoi andare avanti e quando arrivi all'ultima scuola è già finito tutto. Tu quanti anni hai? Non posso perché non ho studiato, studio per domani. Posso andare in bagno? Non ho studiato neanche io, posso venire domani? Io sono la vostra nuova maestra. Sei una femmina? Allora, siamo entrati in questa stanza buia, senza luci. E a un certo punto si sono accese le luci. Buonasera, buonasera a tutti voi, dovunque voi siate, mettetevi comodi e restate in ascolto. Adesso chiamerò il vostro nome. Siete pronti? Va bene? Maria. C'è Maria? Anna Giulia? Non c'è? Sara. Nessuna Sara in ascolto? Francesco. Presente. Luigi? Paola? Presente. Margherita? Rodolfo? Presente. Stefano? Marianna? Presente. Eric? Presente. Alfonso? Presente. Pietro? Presente. Federica? Presente. Gianni? Presente. Laura? Presente. Giorgio? Presente. Anna Giulia? Presente. Silvia. Cosa? Ciao. Ciao. Buongiorno bambini, oggi siete svegli? Buongiorno bambini, oggi siete svegli? Buongiorno bambini, oggi siete svegli? Buongiorno maestra. Dobbiamo dire il nome? Maestra, posso parlare? Posso andare in bagno? Ma veramente o stavi recitando? Dipende. Dipende. Vieni qui. No, no. Dai, vieni. Vieni qui, dai. Più vicino, avvicinati, per favore. Tu? Presente. Tu? Presente. Non ti vedo. Presente. Assente. Presente. Presente. Cosa c'è? Non lo so. Io vi ho fatti venire qui. Vi ho fatti venire qui oggi perché ho bisogno del vostro aiuto. Io ho un problema. Qualche giorno fa in un bosco... Sì, dove ci sono lupi. Anche? Dove ci sono tanti alberi. Non solo gli alberi, ci sono anche... lupi. Forse. È un bosco... pieno di alberi, pieno di sassi, c'è la ghiaia per terra. E poi? Lupi. Ancora, lupi. E poi? Tanti animali, scoiattoli. Tanti animali, Poi ci sono maghi. Tanti alberi, terra, tanti animali. Ah. Ecco, in questo bosco io ho incontrato una creatura. Aveva fame, aveva freddo, era bagnata, ferita. E io l'ho aiutata. Le ho dato da mangiare, l'ho curata e l'ho portata qui. Cosa dovevo fare? Potevo lasciarla lì così. No, la dovevi aiutare, ce l'hai ancora. L'ho portata qui e le ho dato da mangiare, le ho dato da bere, l'ho asciugata, l'ho fatta dormire, l'ho scaldata. Adesso, io vorrei tenerla qui, ma non so come fare perché, prima di tutto, io non so se lei ne ha voglia. Sta sempre per conto suo, piange, sta lì, ha paura. Quando entro nella stanza si rifugia in un angolo. Se provo a comunicare con lei, non ce la faccio. Allora ho pensato, se chiamo dei bambini mi aiuteranno. Perché i bambini hanno delle idee più belle, più pure. E poi perché vanno a scuola. E forse sanno fare a insegnare a qualcuno a leggere, a scrivere, a parlare. Io so leggere, io ho letto molti libri. E chi te l'ha insegnato? Mi ha aiutato la maestra. E a te? A Torino ho imparato. A Torino ho imparato con l'alfabeto. Copiando quando scriveva la maestra della lavagna. Anch'io. Ma non sono per niente sicura di saper fare a insegnare a qualcuno adesso. Insegnare a scrivere, a leggere. Voi sapete fare? Cosa? Scrivere? Insegnare? A scrivere. Ma le cose che pensate siano importanti. Scrivere. Leggere. Poi? Farlo parlare. Sì? Camminare. Basta. E sapete come fare a insegnarle? Sì. Contare. Anche contare? Sì. Perché? Con il tempo puoi sapere tante cose, tipo a che ora devi andare, se sono tipo le 5. E da fare qualcosa alle 5, ti puoi. Devi sapere che ore sono. Giusto. E pensate di sapere come insegnarle queste cose? Sì, sì, sono bravo a scuola. Va bene. Io la prima volta che ho imparato a camminare ho girato intorno e intorno e non mi fermavo. Perché forse stai imparando a camminare. Non ti stancare perché non volevi cadere. Ok, allora, se per voi va bene, adesso io la vado a prendere e la porto qui. Mettila in una gabbia. No, non in una gabbia. Cos'è? Non lo so. È una creatura. Io non gliel'ho chiesto. Che creatura era? Un animale. Forse. Sì, un animale sì. Ma parla? Parla, no. Sì, lei parla. Sono io che non capisco. Fai versi. Nella sua lingua. Almeno dici com'era fatta. Com'era? Era grande o piccola? Piccolina. Un po' grande e un po' piccola. La vediamo. Ce l'hai qui? Sì, è di là. Adesso la faccio entrare. Evviva! Io non starò qui dentro con voi, però. Me ne vado di là. Esco fuori un attimo. Così state un po' da soli. È meglio. Vi aspetto là fuori. Continuo a parlarvi da fuori, però. Va bene? Siete pronti? Volete? Mi devo vedere un pochino. Va bene, sì. Con gli altri, però. Hai paura. Io non credo che la creatura possa farvi del male. A me non ha mai fatto niente. Allora adesso vado, va bene? No, dai. Non vuoi più vederla? Allora vado. Ciao. Finalmente si è riaccesa. tutto. No, c'è tutto, guarda. Ma sul serio? No, guarda. Io ho paura. Ma non avere paura. È solo un teatro. Ha le braccia da uomo. Non avere paura. Anch'io. Anch'io. Anch'io voglio uscire. Ciao. Come stai? Come stai? Parlo io. Come stai? Bambini, cosa succede? Si è mosso e ci sta guardando. Chiedetegli come si chiama. Come ti chiami? Sì, tu. Tu. Io. Nicolò. Ha detto Bianca. Nicolò, vieni qua. No. C'è una scimmia. Non sa camminare. Più grande dietro. Oddio, è morto. No, ma fa finta di essere morto perché vuole che qualcuno vada là. Aiuto! Aiuto! Bambini, cosa succede? Sento piangere. Chi è che piange? Eric, sei tu? Perché piangi? Avevo paura. Chi è che ti fa paura? Tu che ti eri travestita da gorilla. Come travestita? Ti eri tu. Era un gorilla. Noi siamo entrati e abbiamo visto questo animale. Avevo paura. Tutti si sono spaventati. Indicava uno così. Io e Pietro ci siamo avvicinati un po' di più, però avevamo molta paura, perché faceva dei versi strani. E aveva gli occhi rossi. Ci indicava, ci veniva addosso. Poi noi abbiamo detto, vai sulla luce, vai vicino alla luce, se no non ci vediamo, non mi vedo. Allora, noi l'abbiamo guardata alla luce. Allora, ho fatto 2-3 passi indietro, dopo è ritornato avanti, indietro, avanti. E io e Pietro e un'altra bambina ci siamo avvicinati un po' di più. Allora ci siamo presi paura. Un bambino si è messo a piangere, allora è andato via. Chi è che è andato via? Sono uscito fuori. Dove fuori? Dove ero andata io? Vicino alla porta. E fuori? Cosa sentivi da fuori? Che gli altri stavano urlando. Perché? Perché c'eri tu che ti eri travestita, che facevi quei versi. E poi indicavi. Indicavo? E facevo paura? Ma quando sei travestita, sì. E adesso? Adesso sono travestita? No, quando ero vestita. Quando ero vestita da gorilla. Ma tu, che lo sapevi, perché hai avuto paura? Perché non lo sapevo. Pensavo che tu, che era vero. Perché? Com'era secondo te? Tutto peloso, marrone. E aveva gli occhi rossi. E cosa faceva? Faceva quando eravamo entrati. E allora? Perché dici che non era vero? Perché penso sempre che tutte le cose sono vere. E tu? Sì, proprio tu. Là fuori. Tu avevi paura? Perché? Perché aveva gli occhi rossi. E avanzava prima piano piano. Poi quando avvicinavi ti faceva. Cosa faceva? Faceva paura. A chi? Veramente? I maschi erano davanti e noi femmine eravamo di dietro a fare la barriera con i cuscini. E dopo l'altro bambino con la maglia blu si è avvicinato. Abbiamo parlato, gli abbiamo detto, sai parlare? Se no te lo sai parlare? Gli dicevo ciao, ciao, e lui faceva i gesti. Una bambina gli ha detto, facciamo l'alfabeto. No, non l'ha toccato, l'ha toccato con il cuscino. Io mi sono fatta coraggio, l'ho toccato un po' con il cuscino. Dopo lievemente gli ho lanciato un cuscino. Lui l'ha spostato e andava avanti sempre. A un certo punto ci ha come ascoltato, perché noi gli dicevamo vai indietro, e vai lui indietro. Andava indietro e avanti. Poi abbiamo detto bravo, vai indietro, vai indietro, vai indietro. Lui andava indietro, ma a un certo punto, lì a metà, si è fermato ed è andato di nuovo avanti. Forse anche la creatura ha paura. E come si fa? Pensi che potrebbe migliorare la situazione? No. Ci vorrei provare, ma se continua a farmi così, se stasse fermo un attimo, io lo posso toccare. Allora, vediamo. Quali sono le cose che non dovrebbe fare per poter avere un buon rapporto con voi? Come fa lei ad avere una relazione con voi, se siete così diversi? Prima di tutto, a non apparire così paurosa, nel senso gesticolare meno, stare fermo. Cioè? Uno lo può toccare senza che... Uno lo può toccare, però non farmi più i versi. Lui deve stare fermo, buono. Uno così lo può toccare, lo può accarezzare e... Non fare i versi, non fare le indicazioni e stare lì fermo seduto. Sempre seduto? E dopo? E dopo alzarsi in piedi a camminare e insegnarselo. Insegnarselo, da solo. Camminare? Prima iniziare a provare a insegnargli a camminare. Ma non sa proprio niente allora lui. Non sa, non so, nemmeno fare le carezze? Perché quando ci salutava faceva i gesti di guardia che voleva... ci voleva abbracciare. E cosa voleva da voi? Lo so, non lo so. Credi che volesse qualcosa da voi? Sì. Amore. Sei sicuro? Sì. Allora pensi che potresti non avere paura di lui? E come pensi di fare? Abbracciarlo, come fa lui, di solito. E tu? Io gli insegno a parlare. Come pensi di fare? Non lo so, non lo so. A te chi te l'ha insegnato? La mamma, il papà. E come hanno fatto? Quando ero piccolina mi dicevano delle cose mi entravano in testa, poi un po' ho imparato qualche parola. E poi adesso quando sento delle parole che non ho mai sentito le chiedo a loro e loro mi dicono cosa significa. E tu? Pensi di fare lo stesso? Da che parole vuoi iniziare? Io dicevo delle piccole parole, le più semplici. Tipo? L'uccello nero salta leggero, si chiama merlo senza saperlo. Come? L'uccello nero salta leggero, si chiama merlo senza saperlo. Questo è quello che gli vuoi dire? Sei sicura? Va bene, e quando glielo hai detto cosa farà? Gli dici le lettere, piano piano lui ti riproduce il suono. Lettera per lettera, dico una lettera molte volte. E poi? Riproduce il suono piano piano, poi un'altra lettera, poi un'altra lettera. Poi la parola in una le sillabe. Poi dopo mezza parola e poi dopo tutta la parola intera. Ma c'è un problema. Come fa a sapere il significato? Come fa a sapere cosa vuol dire? Ad esempio, se tu dici nero, come fa lei a sapere cosa vuol dire nero? Basta che gli fai vedere il colore, gli dici che è un colore scuro e lui capisce cos'è il nero. E come gli dici? Questo è nero, è un colore è scuro. E cosa ti aspetti? Lui dovrebbe capirlo, tra virgolette. Cosa? Cosa fa? Ridirà la parola. Ok, questo è il tuo metodo di insegnamento? Sì. Va bene, dopo mi dici se ha funzionato però. Basta che stia fermo e non gesticoli, per me va bene. Ok. E non gesticolare, per favore. Io ti dico, adesso sai cosa sono le lettere, vero? Bene. Io dico queste lettere e te le devi ridire, capito? Devo spiegare una cosa. I colori. Non sai camminare, allora io ti insegnerò. Camminare. O, C, C. Banana. C, E, L. Questo è nero, è un colore, è scuro. L. Banana. O, E, F. O, nero, nero, l'uccello nero, S, L, T, A, salta, L, E, G, G, E, R, salta, leggero. Banana, banana, banana. Il gorilla mangiano banane, come le scimmie. Uno se la sbuccia e la mangia. Mangiarla piano perché è lunga. Dopo dentro la banana è bianco. Si mangia. Apri la bocca. C'hai i denti. La mangi. E la chiudi. E dopo la morsichi. La mangi giù. No, ho detto morsa. Un bambino piccolo che mangia una banana e un gorilla nero gira il bimbo. Gli sta accanto per fare compagnia. Perché sa che è umano. Sa che è umano. Non fare più i versi. No. Lo so, sei tu travestita. Sei tu. No. Lo so, sei tu travestita. Buongiorno, sono il vostro nuovo maestro. Non sei nuovo. Come non sono nuovo? No, è maschile. Cosa è maschile? Dico maestra. Dico cosa? Io sono la vostra nuova maestra. Perché? Perché sei una femmina. Sono la vostra nuova maestra. Buongiorno ragazzi, io sono il nuovo maestro e sto con voi tutto l'anno. Buongiorno bambini, io sono la vostra nuova maestra. Buongiorno ragazzi, io sono il nuovo maestro. Starò con voi tutti gli anni fino alla quinta. Ah sì, eh? E adesso? Bisogna dirlo. Cosa? Una maestra. A chi lo diciamo? Ai bambini. E come si fa a scoprire dov'è, tra tutti noi? È seduta qui? Facciamo come nel gioco dell'assassino. L'assassino? Perché? Allora, ci mettiamo tutti in cerchio, poi uno passa a dire chi è l'assassino. Ma perché l'assassino? È come in un giallo? E se gli dice no, non è l'assassino. Se gli dice sì, è l'assassino. E poi? Quando uno sa chi è l'assassino, deve ammazzare gli altri facendogli l'occhiolino. E chi le ha inventate queste regole? Questo no, questo non so, ma uno deve dire sì o no a bassa voce, così gli altri non lo sentono e dopo L'assassino e quello che ha detto lo sanno, e gli altri no. E gli altri devono indovinarlo quando quello lì fa l'occhiolino. Volete dire che il maestro o la maestra è uno di noi? Noi qui dentro o là fuori? E solo quello che la scopre poi sa chi è? E che poi rimane un segreto tra loro due fino alla fine del gioco? Siete sicuri che funzioni così? È una cosa che va rispettata. Ho capito. E vanno rispettate, tipo se è un gioco con delle regole vanno rispettate, se no non è quel gioco. Va bene, allora proviamo. Anche voi là fuori, ci siete? Proviamo? Siete pronti? Via! Allora, chi è la maestra? Qualcuno l'ha scoperto? Sapete cosa sono queste? Sono mille lire, ce l'ho anche a casa. Cioè? Sono i soldi che c'erano tempo fa. E sopra i soldi chi ci mettono? Le persone più importanti. Ah, con i capelli bianchi. Non solo coi capelli bianchi. Chi è questa signora? Sembra un maschio. Ti piace? A me sì, perché ha anche la mia nonna è vecchia. Allora ti piace? L'ho visto una volta. Una volta? Sei sicuro? Sì. Quando dormo per non stancarmi, mi dice di mettermi a letto e mi racconta delle storie. Per farmi addormentare. Sì, sa tutte le storie che devono anche venire. Allora è questa la nonna che incontriamo. Può darsi. E loro due? Chi sono? Sono dei bambini. Siete voi due? Sì. Cos'è la nonna? No, questa è una maestra. Le nonne possono fare maestre? Una testa gigante. Chi siete? Siamo dei bambini. I tuoi alunni? Sicuri? No, anzi sì. E io chi sono? Sei una nonna importante. Una maestra? La vostra maestra? No, quello non lo so. Sei importante per le cose che racconti. Ma ci siamo già visti? Sì, t'ho visto in una foto su mille lire. Eri bella. Non so neanche come ti chiami. Non ho capito il nome. Ho capito Toria. Allora, cosa è successo qua dentro? Oggi è successo che abbiamo fatto uno spettacolo. Siamo andati a un teatrino e tu ci hai fatto delle domande e noi ti abbiamo risposto in gruppetti da due. E abbiamo anche incontrato una vecchia che ci ha raccontato una storia. Non ho capito. Avete incontrato una signora che? Che quella signora si chiamava Storia e ci ha raccontato che era una maestra. Che insegnava degli alunni. Cosa vuol dire storia? Lo sai? No, qualcosa che si racconta. Cioè? Non so come spiegarlo. Storia è una materia di scuola che insegnano ai bambini che cosa si faceva nei tempi molto passati, avanti Cristo. Tu ce l'hai una storia? Sì. E che storia è? È presente. Cioè? Me l'hanno detta ai tempi di oggi. Allora cos'è la storia? Storia io non lo so perché non la vedo nelle lezioni. Come non la vedi? No, perché io sono già in prima. Ma storia è qualcuno che si può vedere? Penso di sì, è qualcosa che si legge nel pensiero. E questa storia, quella che hai incontrato prima, era una maestra, hai detto. Cosa vuol dire per te maestra? È una ragazza che insegna a alcune cose. Ah, una ragazza? Come me? No, una vecchia. Una ragazza o una vecchia? Una vecchia? Sei sicura? Sì. E la storia ci ha anche raccontato una bella storia di un bambino che diceva le bugie e la mamma l'ha punito. No, ci ha raccontato di un bambino che aveva tanta fame e non sa dove andare a comprare qualcosa da mangiare per sfamare la sua famiglia. E va dal fornaio. E ruba un pane. Quando è che va raccontato tutte queste storie? Che c'era un bambino che non so come si chiama. Tu Tu come ti chiami? C'era una bambina che si chiamava Federica e che era una vecchia, gli ha chiesto che doveva entrare e la bambina obbedì, entrò. C'era una volta una bambina che si chiamava Federica. Era nella sua stanza. È stata chiamata per il pranzo, ma dietro la porta c'era una sedia. Sulla sedia c'era un vassoio e su questo vassoio c'erano 10 tazze. Federica non poteva sapere che c'era tutto questo dietro la porta. È entrata, la porta ha urtato il vassoio e patatrac! Le 10 tazze si sono rotte. Sei stata tu? No. Come no? Io non sono stata. Qui ci sono i cocci e tu sei Federica. Perché io non c'era il vassoio quando io sono entrata. Perché? Ma è una storia passata o presente? La storia è la storia, no? Futura, forse. Cosa devo fare io adesso? Dirmi di stare più attenta quando devo entrare. Come? Punire. Cosa? Devo stare attenta quando entro. Mettere in punizione. Chi? È giusto punire un bambino che ha fatto un disastro senza volerlo? Sì. Tu sei mai stato messo in punizione? No, perché faccio quello che mi dicono. Io invece penso di essere un pochino stata punita, se mi ricordo bene, perché non mi ricordo. No, io non sono mai stato punito. E cosa dovrei fare io per punire un bambino? Di togliergli per 10 giorni la sua cosa più bella. Addirittura? No, io non punirò nessuno per questa storia. Avete fame? Ecco, qui ci sono 3 panini. Grazie. No, sono 2. No, sono 3. Li dobbiamo dividere. Quanti sono? 2. Solo che diviso in metà diventa un 3. Ma erano 3. No, erano 2. 3. Sì, erano 3. E dov'è il terzo? Non c'è. Boh. L'avete preso voi? No. Quando abbiamo aperto la scatola ce n'erano 2. Non sappiamo chi l'ha rubato. Voi? No. E allora? Allora è entrato lì. Ladro. Un ladro? Sì. Ma cosa vuol dire che ha rubato? Rubare, prendere delle cose a che non è tuo. Senza chiedere. E questo sì. Oppure si può dire anche prendere un panino senza chiederlo e poi portarlo via. Come hai fatto tu? No, non ho fatto. Non l'ho rubato. E cosa si deve fare a un ladro? Ah, li devono mettere in prigione o uccidere. Ma chi uccide? Devi chiamare i poliziotti così lo prendono e lo mettono in galera. Per un panino. O andare a tribunale a risolvere questo problema. Oppure dire a quel ladro di chiedergli scusa. Chiedi scusa? Ma non sono stato io. E allora? Allora dargli una punizione e metterlo in galera. Che punizione? Quella di non rubare mai più a nessuno. Per me è di stare in prigione per 5-6 giorni. C'erano una volta 3 bambini. Nicolò, Vassiru, Ben. Incontrarono un bambino molto povero. Il bambino dice che non ha mangiato, perché a casa sua non c'è niente da mangiare. Nicolò, Vassiru e Nel entrano in un forno. Ma siccome non hanno soldi, quando il fornaio gira le spalle, rubano 3 panini e scappano via. Il bambino povero mangia i panini che loro hanno rubato. Anche a voi allora serve la prigione? Avete rubato il mio panino! Io no, ma forse è stato lui a rubarlo. Visto che aveva fame, è andato a rubare un panino per mangiare e per sfamare la sua famiglia. E allora? E allora gli possiamo lasciare il pane se non ha da mangiare. Perché? Ah, ci sono delle persone ricche, delle persone povere. E adesso io cosa devo fare? Perché la colpa è nostra. Appunto. La storia si può avverare, ma si può anche non avverare. Si avvera sempre. È vero che siamo stati lì, è vero. E cosa devo fare? Mettere in galera o ucciderti? Uccidervi? No, darci una punizione. Vuoi dire qualcosa tu? Io so che di chi è la colpa. Del fornaio. Cosa? Noi prendiamo il pane. No, chiediamo al fornaio se potevamo prendere dei pani. Lui aveva detto di sì, allora abbiamo preso dei pani e li abbiamo dati al bambino povero. Avete fatto bene. Sì. Per me la colpa non è di nessuno perché il bambino era povero e quindi il bambino ha chiesto al fornaio se poteva prenderlo perché il fornaio è stato gentile, i bambini gliel'hanno chiesto e non l'hanno rubato, però il bambino era povero quindi ne aveva bisogno. L'ultima storia riguarda la bugia, lo sapete che cos'è? È una cosa brutta. C'era una volta un bambino che uscì di casa da solo. Incontrò un cane feroce che ringhiava forte. Questo bambino aveva così tanta paura che corse via e, arrivato a casa, disse a sua mamma: «Ho visto un cane grosso come una mucca!» «Io non ho mai visto un cane come una mucca. Almeno ho visto dei cani grossi, ma non come una mucca. Almeno un pochino più piccoli, però belli grandi.» «Bugia!» «No, no, davvero, io non, questa bugia che ho appena detto non l'ho. Non è una bugia, perché davvero ho visto davanti a scuola un cane che è grande, ma grandissimo, però non grande come una mucca, un po' più piccolo, però grande. E invece era piccolo.» C'era una volta un altro bambino che tornò da scuola e disse alla mamma che aveva preso un bel voto, ma non era vero. Non aveva preso nessun voto, né bello né brutto. Ma la mamma gli credette e fu contenta lo stesso. «E come faceva a scoprirlo la mamma?» «Non poteva. È questo che fanno le bugie. Perché ha detto questa bugia?» «Perché non voleva essere sgridato. Perché non voleva essere punito. Perché anche quella storia per il voto penso che lo dovrebbe proprio punire. Ah, e per il cane io non so perché lo deve punire. Ah, perché ha detto che era grande come una mucca.» «E quindi lo deve punire, secondo te?» «Perché ha detto una bugia. Due bugie.» «Una o due?» «Però ho detto anche una bugia, quella del voto. Perché invece, perché ha detto una bugia, cioè invece ha detto 4, è proprio un brutto voto, e ha preso 5. E invece il cane poteva anche essere tipo grande come una mucca, ma non grandino, però tipo simile a una mucca, un pochino grande come la mucca. Io avrei preferito quella del voto per essere punito, perché quella del voto, cioè, era proprio una brutta bugia.» «Sentite, bambini, ancora, ancora, sentite, c'è un cane, è qui fuori, andate a vedere, correte, uscite, aiuto, è grosso come una mucca, ci mangerà!» Allora, cosa c'è là fuori? La strada, il cortile con le biciclette. E ancora più fuori? Fuori da questo luogo? Un cortile, degli alberi, un po' di sassi, e abbiamo anche un altro cortile più piccolo, un pochino con delle piante, cespugli e fiori. Il bar. Ma che il bar? Sì, davanti alla scuola. Gli appartamenti, un altro cortile e la palestra. La palestra è dentro alla scuola. Vabbè, cioè è lì nel cortile. La palestra, la strada, il supermercato, dei giardini e altri vari negozi. E un po' più dentro c'è il nostro gatto Marta, un po' di erba, dei sassi, un monopattino, delle bici, dei tombini, quelli che stanno per terra, e un albero grandissimo. E ancora, cosa c'è qui dentro? Dentro a un teatro di esercitazione. E là, fuori dal suono, fuori dal sogno? La mia stanza da letto, il mio letto, i miei giochi, la mia borsa dei segreti, la mia mostrai, i miei finti strucchi e la frangi. Cos'è fuori? Fuori nel senso fuori da un luogo, tipo fuori dalla scuola, fuori dal teatro, fuori da un supermercato, fuori dalla casa, fuori dal giardino, alcune stanze. E se invece tutto il mondo fosse qui, in questo luogo, qui dentro? Se mi trovo a scuola, ci sono i miei compagni. I banchi. La maestra. I cartelloni. Le finestre. Gli armadi e un mobiletto. E la e le lavagne e un altro. E cosa c'è ancora? Vedo dei filini che vanno nell'aria e il riflesso. Cerco di prenderli. Buongiorno cittadini, io mi chiamo Roberta, voglio cambiare il mondo per renderlo natura ed acqua. Eliminerò le bollette e le tasse. Sarà un presidente che penserà soprattutto a voi e non a se stesso. I bambini si possono divertire senza preoccuparsi di nulla. Anche più parchi. Ci saranno anche più parchi. Io sarò per voi una sorella, vostra sorella e una sostenitrice perfetta. Voglio cambiare il mondo trasformandolo tutto oro, perché mi piace il colore con l'acqua naturale. Buongiorno cittadini, ho delle cose importanti da dirvi. Allora, voglio cambiare la scuola. Io vorrei cambiare città e cambiare casa e costruire i campi di calcio. E vorrei fare arrivare il mare in bagno e costruire i bar nuovi. Abbiamo trasmesso il radiodramma giallo di Fanny Alexander. Ideazione Luigi De Angelis e Chiara Lagani. Drammaturgia Chiara Lagani. Regia Luigi De Angelis. Voce recitante Chiara Lagani. Con Alfonso Cafaro, Bassi Rufal, Anna Benini, Francesca Benini, Noemi Cicchetti Ferrante, Eric Cicchetti Ferrante, Nel Danesi, Nicolò Montanari, Pietro Lorenzo Spurio, Anna Giulia Valgiusti, Federica Valzania, Sara Vernocchi e gli altri bambini dei laboratori Pianeta Giallo di Parma e Ravenna. Progetto sonoro The Mad Stork. Registrazioni Riccardo Pasini di Studio 73, Marco Parollo e Sergio Policicchio. Sound editing Sergio Policicchio. Coproduzione Area 06 Short Theater in collaborazione con Solares delle Arti Teatro delle Briciole. Giallo ha debuttato come radiodramma dal vivo nel progetto Radio e Infanzia Sant'Arcangelo 13.